Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ben ritrovati su Radio 24 e ben ritrovata Ivana Di Martino. Ciao, buona domenica a tutti. Allora Ivana, ci stiamo avvicinando al Natale e iniziano ad arrivare fortunatamente i primi regali. Uno di questi è l'ospite di oggi che ci regala la sua presenza qui a Radio 24, Giovanna Epis, benvenuta. Buongiorno a tutti. Allora Giovanna, possiamo dire che tu sei l'ospite perfetta per questo programma, perché tu di Personal Best ne stai facendo uno via l'altro, l'ultimo alla maratona di Amsterdam quest'anno con un bel 2 ore 32 e 31 secondi. Come va? Bene. Va bene, diciamo che sto recuperando adesso un po' dalla maratona e niente, sì, personal best, felice, ovviamente come ogni personale sei sempre, sei tolto quel peso, insomma la maratona è andata. E poi di ben un minuto e mezzo. Sì, un minuto e mezzo, sì, è andata proprio bene, volevo fare un tempo attorno alle 2 ore 32 e diciamo che fino al 35esimo chilometro ero in tabella per fare 2 ore 31 alti e poi gli ultimi due chilometri li ho sofferti un pochino, però vabbè, felicissima lo stesso. Anche perché anch'io ho fatto la maratona di Amsterdam e conosco gli ultimi due chilometri, sono forse i più faticosi tra l'altro, perché ci sono c'è un cavallo cavia, mi sembra. Sì, dal 38esimo c'è un cavalcavia, poi si rientra in quel parco che si è entrati all'inizio e quindi poi ci sono varie curve, controcurve, però beh, poi si arriva nello stadio, è proprio bello. Sì, meraviglioso, è vero. Ti stai migliorando praticamente tu a ogni maratona, ne hai fatte 5, no? Se non sbaglio. Esatto, 5. E ogni maratona sei riuscita insomma a battere il tuo personale, quindi sta andando benissimo. Insomma. Sta andando benissimo, andiamo sì. Verso le 2 ore 30 ormai. Speriamo. Non possiamo dire. Esatto, corriamo e vediamo. Una curiosità, parlando con una professionista, avete anche voi questo il muro, no? Dai 32-35 al 35esimo chilometro, come lo vivete, se ce l'avete prima di tutto e come lo vivi tu? Allora, innanzitutto sì, c'è. Nel senso, la mia prima maratona è stata a Firenze nel 2015 e l'ho vissuta come con l'ansia di questo muro che tutti mi parlavano, c'è il muro e diciamo che lì è arrivato soprattutto perché insomma era la prima maratona, avevo anche un po' di tensione, quindi avevo anche la paura di non finire. E nelle altre maratone diciamo che è stato, cioè ad Amsterdam è arrivato nel senso che dal 35esimo ho cominciato a faticare, sentivo che proprio c'ero al limite. C'è e si affronta come lo fanno tutti i podisti, penso, cioè con la testa e col cuore. Io dico sempre la maratona si corre soprattutto anche col cuore, perché è quello che nei momenti proprio di difficoltà ti fa andare avanti. E qual è la tua settimana tipo di allenamento? Anche per vincere questo muro, diciamo. Allora, quando preparo la maratona solitamente mi alleno dai 12 ai 13 sedute e la settimana tipo è, cioè il giorno diciamo è più o meno sempre uguale, ti alzi al mattino, fai il primo allenamento, poi arrivi a casa, magari fai un po' di stretching, un po' di core stability, poi pranzi, ti riposi e riparti col secondo allenamento, cena e poi si dorme, cioè la giornata è così. Quindi una media di quanti chilometri circa a settimana? Ah, io non sono arrivata ancora a fare queste grosse quantità di chilometri, diciamo che ho toccato i 180, però non tutte le settimane comunque. Quelle di carico, ci sono immagino. Settimane di carico, poi quelle di scarico, però comunque non ho mai fatto diciamo allenamenti più lunghi di 32 chilometri, quindi nel senso penso che ci sia abbastanza margine di miglioramento, perché finora non ho ancora fatto queste grosse quantità di allenamento. Certo, mi sono allenata, perché senza allenamento non si arriva da nessuna parte, però secondo me non ho ancora comunque fatto questi grossi lavoroni da maratona, quindi cioè, speriamo, certo. Almeno lo spero. C'è del margine, diciamo. Speriamo. Ma come ti sei avvicinata alla maratona? Perché prima facevi altro, ho letto. Sì, facevo, allora, da piccolina, da allieva, facevo i 1500, i 3000 e cioè comunque mi piacevano. Poi ho cominciato a fare i 10.000, il mio primo 10.000 ho detto mai più distanze lunghe e poi invece pian piano ti prende, cioè come un po' tutto, e ho fatto le mezze e poi comunque il mio sogno era sempre quello di fare la maratona. Poi nel 2015 è stato un anno particolare perché mi sono allenata, però non i cross sono andati male, tutta una serie di gare che sono andate male, ho detto ok, bene, preparo la maratona. e da lì mi sono comunque avvicinata, ho detto ci provo e vedo se è davvero quello che c'è, la mia specialità. Se poi non va, pazienza. Invece poi, cioè, dalla prima è stato sempre più bello, perché è proprio, cioè, lo dico a tutti, fate una maratona una volta nella vita, perché è un'emozione enorme. E quindi, insomma, adesso è diventata la tua distanza preferita? Sì, sì, sì. Grandissima. Beh, in mezzo ci sono, immagino ragazza, ci sono anche altre gare, insomma, no? Sì, certo, cioè, non è che, insomma, c'è solo quella. Fai una maratona, però ci sono le mezze, cioè, mi diverto anche io a fare i 10.000, okay. Però vedo che comunque mi esprimo molto bene nella maratona, cioè, sento che proprio è la mia distanza. Vedendo un po' ultimamente ci sono un po' due scuole di pensiero: chi ancora in allenamento percorre tantissimi chilometri per preparare una maratona, no? Magari anche professionisti 200-240 chilometri, adesso per le donne un po' meno, e chi invece magari ha una tendenza di abbinare anche un altro sport alla maratona, per cui diminuire un po' le distanze e inserire magari delle parti a nuoto in bicicletta. Tu usi un po' nuoto o bici? Allora, io personalmente no, però secondo me comunque aiuta, cioè, nel senso, bisogna anche vedere il proprio fisico, come, cioè, se riesce ad andare a percorrere così tanti chilometri. Magari un fisico che è un po' più debole, che si infortuna facilmente, può aiutare molto. Poi secondo me correre comunque grosse quantità di chilometri non fa neanche troppo bene, perché comunque poi vai a intaccare un po' il motore, cioè, nel senso, perdi anche un po' di brillantezza. Quindi poi io non sono un'allenatrice, no, quindi no, dico secondo la mia esperienza. Infatti. Così, però vedo che molti comunque, oltre alla corsa, mettono anche la bici, la piscina. Io personalmente vado, cioè, nuoto solo quando magari ho qualche problema, qualche acciacco, okay. Allora uso altri sport, diciamo. E la tua prossima gara in programma? E gareggerò a Bolzano, l'ultimo dell'anno, Alamo Classic. E diciamo che sarà proprio una gara, uno sprint per me, perché 5 chilometri sono veramente corti. Pochi, allora. E poi da lì, diciamo, si penserà a programmare il 2018 con una maratona in primavera, ovviamente. Quale ti piacerebbe fare? Non so ancora, penso che andrò all'estero, perché se voglio avvicinarmi comunque al muro delle 2:30 o giù di lì, insomma, devo trovare una maratona abbastanza competitiva. Quindi non ho ancora pensato a che maratona farò, però sì, all'estero di sicuro. E come arriverai alla corsa dell'ultimo dell'anno, dopo, insomma, i pranzi, le cene che affronterai durante il periodo natalizio? Dai, ci arriverò, mangerò di sicuro, quello sì, perché sono di bocca buona. Però sì, dai, alla fine si smaltiscono, dai, dal 25 al 31. Ma tu segui un certo tipo di programma per, appunto, alimentarti in un certo modo? Allora, diciamo che, cioè, mangio bene e non, cioè, non mi privo di nulla, perché comunque siamo anche fortunati, maratoneti, perché corriamo tanto, quindi spendiamo tanto e possiamo mangiare. Diciamo che sono stata seguita da un nutrizionista e mi ha un po' fatto capire le giuste quantità di proteine, carboidrati, perché non è mai semplice comunque come introdurre gli integratori. Poi da lì, dalle linee guida, comunque poi dopo uno si arrangia un po' e diciamo che mangio bene e cerco di non mangiare ovviamente le cretinate, basta, c'è solo quello. Sì, perché poi si recupera anche mangiando, esatto, molto bene. Esatto, quindi molti non capiscono che comunque l'atleta professionista, cioè, non è solo il momento in cui vai a correre e poi finisce lì, ok, Giovanna ha fatto un'ora di allenamento, poi fa niente, poi un'ora alla sera, finita. Invece no, cioè, comunque c'è il riposo, soprattutto l'alimentazione. E se non mangi bene, non ti riposi bene, poi non riesci comunque ad andare a correre il giorno dopo o i giorni a seguire. Comunque è una parte importante, infatti, il riposo, cioè, fa parte dell'allenamento. Sì, no? Sì. Leggevo ultimamente di un atleta inglese, insomma, che cercando di battersi continuamente alla fine anche, insomma, esagerava un po' nell'allenamento e anche con l'alimentazione, magari non stava molto attenta e ha avuto delle ripercussioni anche un po', certo, psicologiche, insomma. Sì, sì, sì, cioè, quasi, certo, a non avere neanche più voglia di correre. Sì, sì, certo, è tutto legato, poi, anche perché comunque cioè correre ti porta davvero al limite, quindi anche la testa deve essere tranquilla, cioè tutto un concatenarsi di cose, quindi bisogna stare molto attenti, cioè non è solo allenamento. E quando prepari le tue gare dal punto di vista dell'alimentazione, per dire, c'è un'alimentazione diversa quando prepari una maratona rispetto alle altre gare? Ma un po' sì, cioè comunque si sta più attenti anche a livello di integrazione, perché comunque con la maratona, cioè, ti usura, cioè vai a fare tanti chilometri, quindi magari cerchi sempre di mangiare un po' più di carboidrati anche alla sera se il giorno dopo c'è il lungo, comunque introdurre un po' più di proteine perché anche quelle sono importanti, un po' varia, diciamo, sì, cioè anche, soprattutto a livello di integrazione cerchi di stare davvero più attenta. Quello sì. E come si fa invece anche, ok, tu sei una professionista per cui è un discorso a parte rispetto agli amatori, ma la motivazione invece per riuscire, per trovare sempre, per battersi insomma comunque per in gara, in gara comunque anche per insomma per ogni volta ritrovare un'energia giusta per... Ma secondo me la motivazione arriva da dentro, cioè se tu vuoi una cosa la fai, cioè come su tutto, in tutti gli ambiti secondo me, se vuoi una cosa la fai, cioè io dico sempre la maratona è... cioè non deve essere una cosa imposta, devi volerla tu, perché sennò non ce la fai a farla. E quindi è un po' così, cioè come magari sul lavoro tu vuoi ottenere una certa cosa, così come diciamo sullo sport, cioè alla fine dico sempre lo sport è un po' maestro di vita. Quindi è chiaro, hai chiaro il tuo obiettivo e quindi cerchi assolutamente di esatto. raggiungerlo, no? E così esatto. si accresce la motivazione. Esatto, sì. Grazie a Giovanna Epis. Grazie a voi. Verso la maratona. Secondo appuntamento dedicato alla preparazione della maratona di Milano o Roma del prossimo 8 aprile, grazie ai consigli e al piano di allenamento del coach Fabio Vedana, bentornato. Ciao a tutti. Allora Fabio, la prima settimana è andata e stiamo prendendo un po' le misure insomma con la modalità di allenamento. Abbiamo fatto il test di Cooper la settimana scorsa, siamo andati sul sito di Radio 24, abbiamo confrontato i nostri dati con la tabella che abbiamo trovato sul sito, sulla pagina di Personal Best, e a questo punto procediamo con la seconda settimana di allenamento. Cosa ci aspetta questa settimana? Questa settimana dobbiamo fare i compiti e wow. ricordo che siamo nella fase di adattamento e quindi è la fase in cui costruiamo la base e le fondamenta su cui andremo a edificare la nostra performance. Quindi abbiamo fatto la discriminante, abbiamo visto dal test se siamo nella popolazione che lotterà per stare sotto il muro delle 4 ore o quella che lavorerà per arrivare oltre le 4 ore. Quindi 2 allenamenti settimanali, perché abbiamo detto che facciamo 2 allenamenti infrasettimanali che sono un po' più corti, quindi ci prendiamo dai 45 ai 60 minuti e in entrambi gli allenamenti faremo un lavoro di corsa continua. Per quelli che stanno sotto le 4 ore andremo a lavorare sempre a livello che ci permetta di correre parlando senza difficoltà. Lavoreremo quindi intorno ai 45-50 minuti. Per chi sta invece sopra le 4 ore alterneremo per 8 volte 4 minuti in cui correrò e 1 minuto in cui camminerò, perché questo ci permetterà di adattare bene tutta la parte osteoarticolare e anche muscolare. Mentre il terzo allenamento, che è quello del weekend, lo allungheremo e quindi supereremo i 50 minuti per quelli che stanno sopra le 4 ore, arriveremo vicino all'ora e lo faremo tutto correndo all'intensità sempre del nostro respiro, che ci permetta di respirare parlando senza problemi. L'avvertenza è che se cominciamo invece a avere difficoltà sia muscolari che respiratorie, non dobbiamo avere il timore di camminare per 1 minuto. Senza non succede timore. Nulla, insomma. Anzi, per quelli che stanno invece che hanno l'ambizione di stare sotto le 4 ore, allunghiamo un po' sopra l'ora e quindi arriviamo già intorno ai 60, 65, 70 minuti, sempre con la stessa accortezza. Anche per loro non è umiliante se quando cominciano ad avere affaticamento muscolare e difficoltà a mantenere l'equilibrio con la respirazione, di inserire 1 minuto di cammino. Ricordiamoci che il nostro obiettivo è la maratona, per cui nel senso noi stiamo costruendo nel tempo, stiamo arrivando all'obiettivo nel tempo, per cui magari all'inizio ci può anche spaventare il fatto che manchi così tanto tempo all'obiettivo, però tutto quello che stiamo facendo è in funzione all'obiettivo stesso, per cui insomma. Sì, e ci sorprenderemo di come il nostro corpo riesce ad adattarsi se gli diamo lo stimolo giusto e se gli diamo la possibilità di recuperare correttamente. Grazie a Fabio e a domenica prossima. Buona corsa a tutti. E anche per oggi è tutto, vi ricordiamo il nostro indirizzo mail per i vostri commenti e le vostre domande, personalbest@radio24.it. Buona domenica. Buona domenica. Personal Best. Tutte le puntate sono disponibili su radio24.it.